Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, Radio 24 in diretta con le storie della cronaca che ci parlano dell'Italia in controluce, fatti e personaggi anche quando non sono sulle prime pagine dei giornali. La chiamano l'acqua alla spina. Si tratta di un sistema piuttosto innovativo per rilanciare l'utilizzo dell'acqua che proviene dagli acquedotti, acqua pulita, acqua buona, ma che normalmente non viene utilizzata per il consumo a tavola. Sbucano fontanelle ormai in quasi tutti i comuni italiani. Quanto fa bene all'ambiente e quanto soprattutto ci fa risparmiare? Se ne è occupata Cristina Carpinelli. C'è chi la chiama l'acqua delle fontanelle, chi la chiama l'acqua ad alta qualità. Resta il fatto che l'iniziativa di distribuire acqua potabile minerale da fontanelle a gettone sta funzionando soprattutto nei piccoli comuni. Si tratta di un'operazione super virtuosa perché da un lato sponsorizza l'utilizzo di acqua potabile comunale e dall'altro riduce l'utilizzo della plastica e sostiene il riciclo. Marco Marinari è il sindaco di Cecina, uno dei comuni che ha aderito all'iniziativa. La prima e più importante è quella di educare i cittadini a bere l'acqua pubblica, insomma, perché riteniamo che bevendo l'acqua pubblica, l'acqua dell'acquedotto, intanto soprattutto ci sia un notevole risparmio rispetto al consumo della plastica. Ecco, l'obiettivo che noi ci poniamo è quello della riduzione dei rifiuti e quindi la riduzione in questo caso della plastica e delle bottiglie di plastica, che sono davvero in tema di rifiuti un elemento importante. In effetti, su questo fronte c'è molto da dire, perché l'Italia è il paese che consuma più acqua in bottiglia a livello mondiale. È un'abitudine che costa molto a una famiglia media di 4 persone, come ci racconta Mario Tucci, vice sindaco di Pistoia. E questo qui fa riscoprire anche il gusto di usare l'acqua del sindaco, ecco, così come usualmente viene detto, perché usare l'acqua dell'acquedotto chiaramente porta non solo a un risparmio economico che le famiglie hanno, e noi abbiamo fatto una stima, una famiglia di 4 persone risparmia dai 600 agli 800 euro all'anno circa di come spesa aveva fino ad oggi per l'acqua. Poi anche le bottiglie, noi abbiamo riscontrato anche che su questo aspetto, anche se ancora i dati e l'azienda che gestisce i rifiuti non ce li ha forniti in forma ufficiale, ma ad oggi vediamo che là dove si riempivano frequentemente le campane della plastica, oggi si svuotano con meno frequenza. È segno questo che c'è senz'altro un utilizzo inferiore. Per farvi capire l'impatto di queste iniziative, è stato stimato che in un anno da 15 fontanelle sono stati prelevati 5.094.000 litri d'acqua. Si è risparmiato circa 3.396.000 bottiglie di plastica da un litro e mezzo. A Cecina, ci racconta il sindaco, all'inizio si avvicinavano in pochi, ma oggi la fontanella non è mai sola. La risposta è stata positiva, è stata davvero positiva. E c'è una continua crescita delle persone che utilizzano la fontanella. E questo anche perché c'è la positività, insomma, la bontà dell'acqua, la positività del fatto che è collocata in una buona posizione. Questo fa sì che ci sia un passaparola continuo tra i cittadini e l'utilizzo della fontanella cresca di giorno in giorno. Vedi, all'inizio, quando l'abbiamo messa, insomma, i primi giorni le presenze erano più limitate, magari c'era anche un po' di diffidenza da parte dei cittadini, insomma, rispetto alla qualità dell'acqua. l'acqua e quindi magari un po' di sospetto come tutte le cose nuove. Invece poi, ecco, con il passare del tempo abbiamo visto che insomma la gente è soddisfatta del servizio e quindi anche con il passaparola, come dicevo prima, l'utilizzo della fontanella sta davvero crescendo in maniera importante, insomma, difficilmente a questa fontanella non c'è nessuno. Diventa anche un momento per vedersi, no? Per incontrarsi, perché comunque si fa la fila, si aspetta, si chiacchiera. Ma sì, guardi, che questo è un elemento, è un ulteriore elemento positivo che ci siamo accorti anche noi, è veramente emerso. E diventa davvero anche un'occasione poi di incontro. Questo è un risultato collaterale. Il costo delle fontanelle viene normalmente coperto dai comuni, dalle regioni e dalle province. Davanti alle fontanelle è stata messa un'etichetta simile a quella delle acque minerali, nelle quali si riporta il valore medio dell'acqua erogata. A Pistoia la storia è partita un anno fa e oggi si consumano 11.000 litri d'acqua al giorno per un risparmio di 350 kg di plastica quotidiani. Ci sono 3 fontanelle in città e ne stanno per arrivare altre 2. I pistoiesi la chiamano l'acqua alla spina, come ci racconta il vice sindaco di Pistoia Mario Tucci. Direi che il risultato è veramente entusiasmante. Quello che abbiamo ottenuto era anche è stato per noi anche imprevedibile, diciamo. Pensavamo sì che fosse una cosa che avrebbe incontrato, ma non certamente in questa misura qua, ecco, veramente tanta soddisfazione. So che i pistoiesi la chiamano l'acqua alla spina, ha un effetto anche, diciamo, di aggregazione, perché anche questo è un altro elemento che si sta venendo a creare e del quale si parla molto, cioè come un po' come il vecchio lavatoio, cioè ci si incontra. Esatto, guardi che io devo dire, quando io che sono vice sindaco vado lì e mi reco a riempire le bottiglie che, diciamo, in certi momenti di punta l'attesa anche oscilla intorno ai 40 minuti, mezz'ora, è un momento in cui hai modo di socializzare anche con moltissime persone che magari o che non vedevi da tempo o che conosci lì e dai modo di interloquire, di confrontarsi. Credo che sia veramente un punto di socializzazione importante. Italia in controluce. E ora un'altra storia. Un marinaio abbandonato, un bambino autistico e una vecchia signora. 3 personaggi raccontati in teatro da Emma Dante. 3 persone ai margini della società, ma proprio per questo spunti per parlare dei sentimenti e della vita di ognuno di noi. La trilogia degli occhiali si chiama. In questi giorni in scena a Cagliari, poi sarà a Genova, Venezia, Cascina, Taranto, Torino e Asti. Emma Dante, intervistata da Elisabetta Fiorito. Allora, sono tre capitoli di 3 situazioni, possiamo chiamare, non storie perché non hanno una trama vera e propria, ma sono, infatti dice come sottotitolo, ho messo 3 studi sui personaggi e non sulla storia. Sono chiaramente delle situazioni, delle condizioni dell'anima di questi personaggi abbastanza emotive, perché sono 3 categorie di emarginati, di invisibili, come i poveri, i malati e i vecchi. E gli studi, i capitoli sono, appunto, hanno dei titoli autonomi in realtà, anche se verranno rappresentati tutti nella stessa serata, il pubblico potrà vederli uno dietro l'altro. Acquasanta, il castello della zia, Acquasanta, che è il racconto di questo marinaio povero lasciato sulla terraferma dalla nave dove lui ha vissuto tutta la vita. Il castello della Zisa, che è appunto uno spettacolo sulla malattia, sullo stato catatonico di questo ragazzino che vive in questo istituto religioso e si è spento, si è, insomma, allontanato dal mondo. E poi il terzo è invece uno spettacolo sulla vecchiaia, in cui appunto c'è questa vecchina rimasta sola che festeggia il suo capodanno accompagnata dai ricordi della sua vita. Quanto c'è di Sicilia, di Sud in questo spettacolo? C'è il Sud, perché perché poi c'è un dialetto, il primo per esempio ha un dialetto napoletano stretto, perché appunto questo marinaio parla il napoletano, quindi c'è un po' il sud come in generale, non c'è proprio una posizione proprio locale, geografica, ecco, precisa, ma c'è sempre un po' il, diciamo, il mio mondo, la gestualità che io uso col teatro, che è sicuramente dialettale del sud. È uno spettacolo di prosa classica oppure è misto, è uno spettacolo in cui si balla anche, si danza? No, no, assolutamente, c'è una sottrazione della parola, c'è un lavoro proprio di affabulazione nella prima, nel primo capitolo, che è appunto quello di questo marinaio legato alle ancore che racconta il suo delirio amoroso col mare, e poi dopo c'è questa tendenza invece a sottrarre le parole, perché negli altri due invece c'è molto lavoro sul corpo, sull'espressione appunto fisica di questi attori che raccontano attraverso la gestualità e il ballo il loro stato d'animo. Ed è tutto anche per questa puntata Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchetti. Vi ricordo che potete commentare i servizi che sono andati in onda oppure scriveteci le vostre storie controluce@radio24.it. Buona giornata.